sempre esidente, sempre presente, che ci accompagnerà. Avete sentito il sondaggio che hanno fatto stamattina? No, quale? Non devono fare questo sondaggio. Il sondaggio l'ha fatto le ragazze da 20 a 30 anni e hanno domandato: fareste l'amore con Berlusconi, col presidente anzi, e il 33% ha risposto sì, il 77% ha risposto ancora. Gli diceva il qui presente nostro coordinatore alla mia destra che ieri sera è stata una cena con molte persone e gli hanno messo vicino una bella ragazza con cui ha cominciato a parlare ed è entrato anche in argomenti, diciamo, personali. E questa, a un certo momento gli è venuto voglia di domandare a questa ragazza: ma tu quanti uomini hai avuto? E lei si è messa a contare: un, due, tre, quattro. Beh, gli ha detto lui, ma bella come sei, non sono nemmeno tanti. E lei ha detto: eh sì, è vero, devo confessare, è stata una settimana piuttosto tranquilla. Diffidate da coloro che non sanno ridere.